Ciao a tutte e tutti. Allora, vi leggerò un volantino, un comunicato. Dal 2012 in Rojava è in atto una rivoluzione per la libertà, la giustizia e la liberazione delle donne dall'oppressione patriarcale. Il popolo curdo, insieme agli altri popoli della Siria settentrionale ed orientale, si sono auto-organizzate per proporre un presente e un futuro libero dagli stati-nazione patriarcali egemonici che finanziano e seminano guerra, distruzione della terra e schiavitù delle donne. La rivoluzione in Rojava ha come protagoniste attive le donne come protagoniste attive del cambiamento. Hanno imparato a difendersi formando l'unità di difesa delle donne, l'ICPC, a difendere la loro terra proponendo un'economia ecologica che impedisce il saccheggio e lo sfruttamento delle risorse. E stanno riscrivendo la storia delle donne attraverso genealogi, ma soprattutto hanno dimostrato a tutte le donne del mondo che l'autodifesa è l'unica alternativa per la libertà. L'occupazione della Siria settentrionale e orientale in questi istanti non è stata creata a caso, non è un caso che sia cominciata ieri. Ieri si è celebrato il 20° anniversario del complotto internazionale e il rapimento di Öcalan. Quindi, questo attacco da parte dell'assassino di Erdogan e il suo esercito fascista dimostra semplicemente come le forze internazionali vogliono mettere tutta la regione del Medio Oriente sotto il loro dominio e spartirsela in base ai loro interessi politici. Questo attacco è il risultato di una guerra tra i poteri della NATO e i popoli che resistono e si ribellano. Come Rete Gin Bologna ribadiamo che terrorista è l'Europa, che con le sue misure razziste ha disumanizzato le persone che migrano, convertendo il Mediterraneo in una fossa comune e che dal 2016 finanzia lo Stato turco per il controllo migratorio. Terrorista è lo Stato italiano, che continua a mantenere rapporti e accordi economici e bellici con la Turchia. Durante l'operazione Ramoscello d'Ulivo contro Afrin, la Turchia ha impiegato gli elicotteri d'attacco T-129 per sparare sui villaggi che sono stati prodotti in collaborazione con la Leonardo, l'ex Finmeccanica controllata dal governo italiano. E ha anche fornito l'addestramento, ha fornito anche carri armati prodotti sempre dal gruppo Leonardo per un totale di 229 milioni di euro. Essendo la Turchia uno dei mercati più importanti per l'industria bellica italiana, è stato firmato un accordo preliminare per lo sviluppo di un sistema di difesa aerea con il consorzio franco-italiano Eurosam, da cui fa parte la stessa Leonardo. Ma dato che lo schifo non ha mai fine, troviamo anche altre imprese italiane che investono nello Stato fascista di Erdogan, come la Pirelli, la Fiat e da alcuni anni anche Unicredit, che è azionista di peso della Yapı Kredi, che è la più grande banca pubblica turca. Le donne curde sono le nostre sorelle e siamo insieme in questa lotta. Un abbraccio solidale a tutte le nostre sorelle e i fratelli che stanno combattendo per la libertà di tutte noi.